Quindi procediamo come di solito, facciamo la recitazione del Sutra del Cuore, poi aggiustiamo la nostra prova di rifugio, aggiustiamo la nostra motivazione e andiamo avanti col testo, ok? Mi prostro tra i gioielli supremi, in occasione a volte o di il Bhagavan di Vrindavan sulla montagna Pico dei Voltori insieme a un Vassanga di monaci e un Vassanga di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Pritajara stava applicandosi proprio nella pratica nella profonda perfezione della saggezza e vedi anche in cinque aggregati come vuoti un'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Pritajara: come deve estrarsi ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò, e il Bodhisattva Mahasattva Arya rispose allora al venerabile figlio di Shariputra: Shariputra, ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, prendendo correttamente e ripetutamente anche cinque aggregati come vuoti in intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, ma sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazioni, discriminazioni, fattori di coscienza. Di coscienza, non c'è occhio né orecchio né naso né lingua né corpo né mente, non ci sono forme visive né suoni né odori né sapori né oggetti tangibili né fenomeni e neppure il consistente dell'occhio e così via, fino ad includere il consistente della mente e il consistente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estensione dell'ignoranza fino ad includere vecchiaia e morte in sessione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza o sensazione e sentiero, non c'è senso supremo, né ottenimento neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, i Bodhisattva si basano e dimorano alla perfezione della saggezza, veramente senza più oscurazione e senza paura, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, Nirvana, ed affidandosi nella perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha moranti nei tre tempi sono anche completamente risvegliati all'insorpassabile e perfetta piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Shariputra è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan, rimesso da quel Samadhi, elogiò il Bodhisattva Mahasattva Pritajvara dicendo: ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare a perfezione la saggezza proprio come tu hai mostrato, perfino i Tathagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Shariputra, Mahasattva Arya Pritajvara, l'intera assemblea intorno a loro insieme al mondo dei dei, uomini di semidei Gandharva, esultarono e posarono alte lodi alla parola del Bhagavan. Sangye Jodan Zogye Jonam Loi Jonju Bodhu Dane Gyam Suji Nagye Chin Zogye Pe Sanam Gye Androla Penji Sangye Droba Jo Sangye Jodan Zogye Jonam Loi Jonju Bodhu Dane Gyam Suji Nagye Chin Zogye Pe Sanam Gye Androla Penji Sangye Ma jo sangye anja dan zo ye janam na jam jo ma du dan e gyab su chi dan ye chin zo ye pe sa nam ge andra la pen je sangye ma jo Quindi adesso dobbiamo cercare di correggere la nostra motivazione. Dobbiamo pensare che siamo molto fortunati perché abbiamo una preziosa rinascita umana che è dotata dai 18 attributi, che ha delle grandi possibilità perché ci offre la capacità di creare le cause della sofferenza, della felicità futura e eliminare le cause della sofferenza futura. Okay? Quindi non soltanto questo, ma possiamo anche, sulla base di questa esistenza, avendo incontrato il Dharma, i maestri autentici, eccetera, possiamo anche recidere definitivamente le radici dell'esistenza ciclica e ottenere la liberazione completa, lo stato di nirvana. Però dovremmo pensare che questo scopo anche è limitato, perché esattamente come noi desideriamo solo il benessere, la felicità, essere separato dalla minima sofferenza, esattamente tutti gli altri esseri hanno questo stesso desiderio, no? Di felicità e di non incontrare ciò che è spiacevole. Okay? Quindi si dovrebbe pensare che oggi abbiamo questa opportunità, quindi fare qualcosa di molto significativo, perché possiamo porre le cause per ottenere lo stato di Buddha e quindi far della nostra mente una fonte di benessere, di felicità, di pace per gli altri. Okay? Quindi questa mente che desidera ottenere lo stato di Buddha, quindi utilizzare lo stato di Buddha per il beneficio degli altri, è la mente di Bodhicitta. Okay? Quindi questi insegnamenti anche si fanno parte dell'essere di motivazione iniziale e intermedio, sono comunque rami alla generazione del grande scopo. Quindi si dovrebbe generare questa attitudine che tramite questi sforzi a riflettere, a comprendere, a ascoltare con attenzione, posso io ottenere lo stato di Buddha per essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Questa dovrebbe essere la nostra motivazione. Bene, poi in termini del testo siamo quindi abbiamo trattato le contemplazioni e l'addestramento che riguarda l'essere di motivazione iniziale che ricerca la felicità nelle vite future. Okay? Siamo alla fine, siamo nell'ultima parte di ciò che riguarda le contemplazioni e l'addestramento della persona che ricerca l'emancipazione completa della sofferenza, quindi lo stato di nirvana. Okay? Nirvana, l'abbiamo visto, non è un posto, non è un paese, è semplicemente l'eliminazione completa delle afflizioni mentali dell'ignoranza all'interno del proprio continuum, in modo che la mente dimora in uno stato sempre di pace, di benessere, di beatitudine. Okay? E abbiamo visto che ci sono due metodi per generare questa mente che ricerca la liberazione, okay? Questa mente che ricerca la liberazione è poco probabile che sorge così nel nostro continuum spontaneamente, okay? Quindi dobbiamo esercitare la mente, dobbiamo decondizionare la mente. Adesso la nostra mente va a ricercare la felicità, pensa a trovare la felicità, dove infatti alla fine trova soltanto la sofferenza o l'insoddisfazione, il dispiacere o l'insoddisfazione, okay? Semplicemente perché ha queste proiezioni, l'abbiamo visto, no? Proietta felicità e benessere su certi supporti. Quindi per fare in modo che la mente molla le apparenze di questa vita, concependele come essendo felicità, che molla queste apparenze e che genera questo desiderio di ottenere la liberazione completa, abbiamo due metodi. Uno è la contemplazione delle quattro nobili verità, okay? L'abbiamo fatto insieme, abbiamo visto la contemplazione sulle verità della sofferenza, seguita dalla contemplazione sulle verità dell'origine, okay? Che sono le afflizioni. Abbiamo visto come le afflizioni vengono generate, il perché vengono generate, quali sono i loro svantaggi, eccetera, eccetera. Okay? E l'altro metodo è la contemplazione dei 12 anelli dell'interdipendenza. Okay? Quindi nel nostro testo dovremmo esserci alla pagina, dobbiamo essere alla pagina 56, logicamente. Sì. Quindi sì, comunque c'è poco da leggere, vedrete, sono solo due paragrafi, il resto è tutto sui miei appunti. Ok, quindi sì, qualcuno, sì, 56. Ok, sì, qualcuno può leggere ciò che c'è sotto, contemplare i 12 anelli fino all'outline successivo. Grazie. Cosa sono i sorgere dipendenti relativi? Quelli chiamati sorgere dipendenti relativi sono nel seguente modo. Per via che questo esiste, quello sorge. Poiché questo è prodotto, quello viene prodotto. Per via della condizione dell'ignoranza, sorgono le formazioni karmiche. Per via della condizione delle formazioni karmiche, sorgono le coscienze. Da lì fino a, per via della condizione della nascita, sorge l'invecchiare e morire, il dolore, il lamento, la sofferenza, l'infelicità mentale e l'agitazione. Così sorge un'unica grande massa di sofferenza. In relazione a questo, quando cessa l'ignoranza, cessano le formazioni karmiche. Da lì fino a, quando cessa la nascita, cessa l'invecchiare e morire, il dolore, il lamento, la sofferenza, l'infelicità mentale e l'agitazione cesseranno. Quindi l'unica grande massa di sofferenza cesserà. Conformemente a quanto viene detto, meditate bene sul modo in cui circoliamo, nelle migrazioni felici e nelle migrazioni negative, dipendendo dai 12 anelli del sorgere dipendente. Grazie. Quindi nel buddismo, uno delle grandi tematiche del buddismo è che tutto sorge, tutto è interdipendente, tutti i fenomeni sorgono in dipendenza d'altro, no? Quindi questo lo possiamo vedere a due livelli, sia a livello di ciò che è la visione filosofica della via di mezzo, no? Che presenta che sono tre livelli all'interdipendenza. Questo è ciò che riguarda il modo di esistere dei fenomeni, però anche ciò che riguarda l'esistenza proprio, l'esistenza, la vita di un essere, anche questo è un sorgere dipendente, nel senso che la vita umana o la vita animale o le esistenze felici o le esistenze di sofferenza sono un sorgere dipendente, ok? Sorgono da causa e condizione, hanno delle cause, delle condizioni specifiche che spiegano questo meccanismo dell'esistenza, il perché c'è la nascita, il perché c'è la rinascita. Questo viene spiegato tramite i 12 anelli dell'interdipendenza, ok? Quindi è una cosa, un insegnamento abbastanza tecnico, ok? Quindi penso che oggi faremo una presentazione molto in superficie della cosa e dovremo comunque entrare in aspetti tecnici un po' più sottili nelle sezioni successive, ok? Quindi oggi facciamo un primo approccio e cerchiamo di vedere il perché c'è l'esistenza, ok? Da dove sorge questa esistenza, quali sono le ragioni e le cause alla nostra esistenza umana, per esempio, ok? Quindi vi ho stampato delle tabelle che provengono dal master, ne ho stampato 10 perché di solito siamo intorno a questa cifra, quindi date la priorità, visto che c'è poco materiale, alle persone che vengono regolarmente e gli altri mettetevi insieme, ok? Grazie. E questa cosa la vedremo insieme. Io ho bisogno di una versione italiana anche. Paolo, no. Mi devi lasciare una versione italiana, altrimenti ho difficoltà. Grazie. Ok, quindi come vi dicevo prima, allora gli appunti, cioè questa presentazione è al 90% estratta dalla grande esposizione dei stadi del sentiero di Lamazon Kappa, ok? Quindi studenti, ci sono gli studenti del Basic che fanno il Basic, nel Basic si tratta dell'esposizione intermedia di Lamazon Kappa e i 12 anelli non vengono trattati. Okay? Questa presentazione dei 12 anelli si trova solo nel grande Lamrim. Okay? Vedo, sono... No, non vengono trattati in maniera estesa? No, non vengono trattati per niente. Nel Lamrim medio di Lamazon Kappa. Lamazon Kappa ha scritto tre Lamrim, quello breve, che sono 40 strofe più o meno, quello intermedio e quello grande. In quell'intermedio non vengono trattati i 12 anelli, vengono trattati solo nel grande. Si è preferito focalizzarsi perché il Lamrim Chenmo è più per le persone che hanno già avuto il continuo maturata dallo studio dei cinque trattati. Okay? Ci sono molto più aspetti tecnici, eccetera, eccetera. Invece il Lamrim intermedio non necessariamente per approcciare le varie tematiche all'interno, c'è necessità di avere questo background, come si dice in italiano? Questo alle spalle molto studio, perché vedrete che è un po' complicato. Comunque, trovate anche una presentazione di questo nel Pabonka, ci sono i 12 anelli. Ok. Quindi la seconda parte del metodo per sviluppare la mente che osserva la liberazione, che è questa mente di immersione, di immersione definita, che la mente di rinuncia fa sempre un po' paura, è comunque tecnicamente è la mente di immersione definita, ok? Si emerge da dove? Dal samsara, dalla sofferenza, ok? Dai fenomeni contaminati, e questa è la liberazione. Quindi è di riflettere, quindi il secondo metodo è di riflettere sui 12 aspetti del sorgere dipendente. E questo lo vedremo in 5 parti, no? Vedremo la divisione in 12, vedremo quindi uno per uno questi 12 anelli, vedremo di capire qual è la loro funzione, eccetera, quando arrivano, da che cosa sono dovuti. Poi avremo una presentazione, una classificazione abbreviata in 4. Facciamo dei gruppi, ok? Poi avremo la presentazione su quanti vite i 12 anelli vengono attualizzati, quante vite sono necessarie per attualizzare il ciclo completo dei 12 anelli, ok? Poi avremo un riassunto del significato e alla fine avremo il modo di meditare sui 12 anelli e vedremo che abbiamo quattro modi, quattro approcci meditativi dei 12 anelli. E comunque è un insegnamento estremamente importante, è un insegnamento anche che ha un grande impatto sulla mente per generare questa mente che proprio che desidera la liberazione, ha un grande impatto sulla mente. Se prendiamo il veicolo individuale, no? Il veicolo Hinayana è diviso in due, no? Abbiamo gli oditori e i risitatori solitari, vi ricordate di questo, ok? Allora, gli oditori principalmente contemplano le quattro nobili verità per ottenere la liberazione. Gli arisatori solitari principalmente meditano sui 12 anelli. Quindi anche si può ottenere la liberazione anche meditando sui 12 anelli. Ok? Quindi, il primo, come vedete, il primo anello, abbiamo l'ignoranza. Ok? L'ignoranza. Allora, quello che trovate sulla tabella sono le definizioni dal punto di vista madhyamika svatantrika, ok? Non sono neanche dal punto di vista prasangika, ma comunque non cambia molto. Madhyamika svatantrika, quindi possono essere un po' tecniche e vi darò delle spiegazioni mentre che andiamo. Quindi il primo anello è l'ignoranza. Quindi il testo dice che è un fattore mentale di oscurazione rispetto alla talità. Emotiva, sì, così. È una motivazione, funge di motivazione, un'azione proiettante, ok? Che è incluso nello stesso ciclo di originazione interdipendente, ok? Quindi possiamo farla più semplice e diciamo che è un'oscurazione, è un'ignoranza, non è un mero non conoscere, ok? Non è un semplicemente non conoscere qualcosa. È una conoscenza erronea di qualcosa, ok? È un fraintendimento rispetto alla realtà, quindi è un'oscurazione rispetto al modo di dimorare delle cose, in particolare della persona. Quindi è un'oscurazione rispetto alla mancanza del sé della persona in questo contesto. Quindi è la classe discordante della conoscenza, è la classe discordante della saggezza. La saggezza che cos'è? La saggezza è questa mente che realizza la mancanza del sé intrinseco della persona. Quindi Qui invece l'ignoranza è la classe discordante, è l'opposto di questo, quindi è una mente che concepisce un sé della persona, ok? Quindi questo è il primo anello, l'ignoranza. Quindi in generale l'ignoranza l'abbiamo rispetto a due cose, l'abbiamo rispetto alla realtà, ok? Rispetto sia al significato della realtà come l'abbiamo presentato, e l'abbiamo anche rispetto alla legge di causa-effetto. Quindi dovuto all'ignoranza rispetto alla legge di causa-effetto vengono accumulate delle azioni di composizione che proiettano le esistenze nei rami inferiori. E invece l'ignoranza rispetto alla talità, okay, questo ci fa, solo questa ignoranza ci fa creare delle azioni di composizione che, che proiettano un'esistenza nelle rinascite fortunate. Okay? Quindi noi abbiamo i due tipi di ignoranza in generale, sia quella rispetto alla talità, al modo di esistere della persona, che rispetto alla legge di causa-effetto. Quindi per ciò che riguarda l'ignoranza rispetto alla legge di causa-effetto, spero che adesso la cosa va un po' meglio, perché abbiamo visto insieme un po' il karma, le variazioni, i loro risultati, eccetera. Quindi abbiamo un po' eliminato gli aspetti grossolano di questa ignoranza, quindi non dovrebbe essere troppi problemi da questo. Ok, quindi l'ignoranza motiva, motiva il secondo anello, che sono le azioni di composizione, formazione karmica o azione di composizione. Ok, quindi l'azione di composizione che cos'è? Allora qui vedete che è un fattore mentale dell'intenzione. Questa è la presentazione al 100% svatantrica, perché per i svatantrica il karma è il fattore mentale dell'intenzione. Ok, invece per i prasanghika un'azione è qualcosa, il karma azione fisica e verbale, quindi è una forma, non è l'attività mentale dell'intenzione, anche se l'attività mentale dell'intenzione è qualcosa di molto importante, perché è ciò che indirizza la mente verso l'oggetto, ma l'entità del karma stesso, per la scuola prasanghika e anche per i vaibhashika, per quelli che vengono al master, sono forma, perché sono le azioni fisiche e verbali. Un'azione fisica, un'azione verbale, per esempio, c'è un suono, quindi questa è una forma, ok? E anche l'azione fisica, per esempio l'azione fisica di uccidere, c'è una forma revelatoria associata a questa azione. La forma revelatoria significa che c'è una forma che permette di indovinare come si dice, la motivazione dietro l'azione, quindi in questo caso quella di uccidere. Comunque questi sono aspetti tecnici. Ok, quindi diciamo che qui sono delle azioni, no? Quindi dovuto all'ignoranza ci sono le azioni. Le azioni sono di due tipi, ok? Abbiamo delle azioni meritorie e delle azioni non meritorie, ok? Quindi le azioni non meritorie sono la causa per le esistenze sfortunate della sofferenza, e invece le azioni meritorie hanno come risultato le esistenze di felicità. E abbiamo due tipi di azioni meritorie, ok? Le azioni meritorie che hanno come risultato una rinascita nel rame del desiderio, ok? E le azioni meritorie che hanno un risultato in reami di felicità, che sono quelle della forma e del senza forma. Vi ricordate? Si chiama un karma inamovibile. Vi ricordate queste cose? Ok. Quindi abbiamo questi due tipi di karma meritorio. Quindi abbiamo delle azioni virtuose e delle azioni non virtuose. Le azioni non virtuose proiettano nelle reami inferiori, e le azioni virtuose, che sono due tipi, meritorie e inamovibile, proiettano rinascita nei reami superiori del reame del desiderio o nel reame della forma e del senza forma. Ok? Quindi, dovuta all'ignoranza, visto che c'è questa ignoranza fondamentale rispetto al modo di esistere dei fenomeni e delle persone, Questo agisce di motivazione, come motivazione dovuta all'ignoranza c'è l'azione, no? C'è questa azione. Subito alla fine di questa azione, no? Abbiamo quello che viene chiamato la coscienza. La coscienza è divisa in due. Abbiamo una coscienza al momento della causa e una coscienza al momento del risultato. Qui ci interessiamo per adesso alla coscienza al momento della causa. Cosa significa? Significa che quando abbiamo compiuto un'azione, abbiamo l'ignoranza fondamentale, questa ignoranza si spinge a agire in un certo modo, ok? Al momento dell'azione andiamo a lasciare un'impronta sulla coscienza. Questo si chiama la coscienza al momento della causa, la causa essendo l'azione. Okay? Quindi qui, sì, la coscienza quindi è una coscienza macchiata, in questo contesto una coscienza macchiata da una predisposizione karmica, ok? E quando questo come si chiama? Questo rami, quest'anello, è quando la coscienza viene macchiata da una predisposizione karmica stabilita da le azioni di composizione. Le azioni di composizione sorgono dovuto all'ignoranza. Vedete qui la sequenza? Ok. Quindi, seguendo le scuole, ok? Seguendo le scuole alla quella ci apparteniamo, le scuole filosofiche, questa coscienza che viene, sulla quale viene depositato la potenzialità karmica è la coscienza mentale sottile, o se siamo Chitamatra, la mente base di tutto. Ok? Mente base di tutto. Quindi delle non virtù vengono accumulate dovute all'ignoranza, ok? È dovuta a questo, visto che siamo oscurate rispetto al fatto che della non virtù sorge l'ignoranza, ok? Allora compiamo delle azioni non virtuose, ok? Queste predisposizioni karmiche, queste vengono vengono a infondersi, ok? Sulla coscienza, e questa coscienza sulla quale viene stata la predisposizione karmica è stata depositata, si chiama la coscienza del momento della causa. Ok, quindi la coscienza al momento dell'effetto la vedremo dopo. Quindi cosa dici qui? Se guardiamo le altre definizioni, ok, abbiamo il fattore mentale dell'intenzione che, essendo motivata dall'ignoranza, inclusa nello stesso ciclo, bla bla bla, questo l'abbiamo visto. Il conoscitore mentale principale immediatamente successivo al depositarsi su di esso di una latenza di un'azione proiettante inclusa nello stesso gioco, okay? Quindi vedete qui che una latenza di un'azione proiettante, questo significa che il karma che viene depositato, cioè l'impronta karmica che viene depositata sulla coscienza, avrà come risultato di proiettare cinque aggregati in un reame particolare, ok? Cinque aggregati in un reame particolare. Quindi ovviamente questo è in relazione diretta alla qualità dell'azione, ok? Se l'azione è virtuosa, abbiamo cinque aggregati umani nel reame degli umani. Se l'azione è ancora più virtuosa, abbiamo cinque aggregati di un deva nel reame del desiderio. Se l'azione è non virtuosa, allora abbiamo cinque aggregati, questa azione proietta cinque aggregati animali, nel rame degli animali, eccetera, eccetera. Ok? Ok, allora sì, prendiamo in considerazione la coscienza effetto. Che cos'è la coscienza effetto? È semplicemente ciò che entra il posto di nascita. Ok? Ciò che entra il posto di nascita. dovuto all'attivazione di questa predisposizione karmica depositata dall'anello 2, okay? Dovuta all'anello 2, una volta quando al momento della morte viene attivato il karma, allora la coscienza effetto è ciò che entra il posto di nascita. Sì, infatti, se guardiamo, questo è il primo momento, quindi la coscienza effetta è il primo istante nel grembo materno, se parliamo di un'esistenza da mammiferi. Primo istante, questo è il primo istante, funziona anche con la nascita, vi ricordate i quattro tipi di nascita? Okay. Abbiamo il grembo, poi calore, umidità, uova, spontanea, ok, o miracolose. Quindi questo effetto è il primo istante di nascita. Okay. Quindi per ciò che riguarda il grembo, l'umidità, il calore e l'uovo, quindi è il primo istante nella matrice. Il secondo istante è il quarto anello, nome e forma. Ok, quindi nome e forma, nome si riferisce ai quattro aggregati mentali. Okay? Quindi sono spiegati in questo modo perché per differenziarli della forma, okay? Sono tangibili, gli altri sono più intangibili perché si parla, no, di aggregati mentali, quindi vengono chiamati nome, aggregato del, cioè, anello del nome. Okay? Quindi il secondo istante di nascita, il primo istante è la coscienza effetto e il secondo istante è il nome e la forma. Quindi che cos'è il nome e la forma? Sono i quattro aggregati mentale, okay? Più l'aggregato della forma. A quel momento che cos'è l'aggregato della forma? È l'ovulo fertilizzato dalla sostanza del padre. Okay? Quindi quando l'ovulo materno, okay, è fertilizzato dal seme del padre, quando a quel momento dentro penetra la coscienza, questo è il terzo anello effetto coscienza. Il secondo momento in poi sono i quattro anelli, sono gli, scusate, sono gli anelli nome e forma. È il secondo istante di concezione. Okay? Quindi a quel momento in poi si forma il corpo. Ok? Quindi allora, nome e forma, qui dovrete normalmente anche vedere un problema perché come spieghiamo nome e forma nel caso di una rinascita nel senza forma? Visto che l'entità, cioè il nome, la terminologia qui è nome e forma. Quindi si dice che c'è il seme della forma, c'è la potenzialità della forma, ma non c'è la forma nel senza forma. Ossia, guardiamo il Tantra. Dal punto di vista del Tantra possiamo dire che anche c'è la forma nel senza forma, perché c'è il vento sottile che accompagna la mente sottile, quindi il vento sottile è forma. Ok, quindi allora guardiamo cosa c'è scritto nelle definizioni di queste definizioni che trovate qui sono quelle di Jechun Shikigelsen. Okay, che è l'autore dei manuali di studi di Serage. Okay, queste sono le sue definizioni. Quando si studia l'Abhisamaya Alankara si utilizza il commentario di Jechun Shikigelsen e questo è estratto da questo commentario. Quindi vanno un po' di qua e di là aggiustati per fare in modo che la cosa sia più coerente con il nostro sistema. Quindi dice che il nome e forma è una classe completamente afflitta di originazione dipendente, che è una base comune tra 1. Il risultato proiettato di un'azione proiettante, incluso nello stesso ciclo di originazione interdipendente di quella, 2. Che dimora in una classe di aggregati che hanno come confine l'intervallo di tempo tra la nascita nell'essenza e il momento appena precedente la completa formazione dei sei poteri sensoriali. Ok? Quindi, traduzione. Cos'è il nome forma? Nome forma sono i cinque aggregati contaminati che compongono un individuo, il secondo istante dopo che la coscienza sia entrata nella sostanza del padre e del madre associata, quel secondo momento, fino a, dunque questo anello esiste fino alla formazione completa dei poteri sensoriali, fino alla capacità di poter entrare in contatto con l'ambiente tramite i poteri sensoriali, questo ovviamente all'interno del grembo materno, ok? Quindi nome e forma, avete visto i confini, ok? Dal secondo istante di concepimento, fino alla formazione dei poteri sensoriali. Il momento appena precedente la completa formazione dei poteri sensoriali. Ok? Quindi, sì. Quindi, in breve, sono i cinque aggregati della nuova vita immediatamente dopo il concepimento. Punto, per farla breve. Cioè, nome e forma sono i cinque aggregati. Esatto. I cinque aggregati sono, dicevi, quattro mentali. È uno fisico. Forma, nome. Forma, nome. Nome, nome, forma. Cioè, Cinque. forma uno, nome sono quattro. Cioè, Esatto. le quattro No, coscienze. no, no, no, no, no, no, no. Quali sono i cinque aggregati? No, no, no. Quali sono i cinque aggregati? Fattore di No, composizione. no, no, dal più grossolano al più sottile. Il Non primo. c'è Forma. Il primo aggregato, no? Il corpo, no? Aggregato della forma. Dopo cosa abbiamo? sensazione. Ok, dopo. Discriminazione. Fattore di Fattore di composizione e composizione e coscienza. coscienze. Quindi è chiaro che a questo livello tutte le coscienze non esistono. L'unica coscienza che esiste è la coscienza mentale al momento di nome e forme. Perché? Perché ancora la formazione dei poteri sensoriali deve accadere. Quindi visto che non abbiamo la formazione completa dei poteri sensoriali, non possiamo avere le coscienze sensoriali. Ok? La sensazione onnipresente, la discriminazione anche, un fattore mentale onnipresente, e gli altri fattori di composizione sicuramente ci sono, ma possiamo trovare altri fattori di composizione. Ok? Ti sento un po'. No, ma magari più avanti per comprendere. A questo bisogna vederlo un po' di volte, è una cosa non così semplice. E quindi l'anello successivo. Sono le sei sfere sensoriali, o le sei sorgenti, o le sei sfere sensoriali. Cosa sono? Sono occhio, orecchio, naso e lingua, cioè i poteri sensoriali visivi, uditivi, olfattivo, e gustativo, perché gli altri due esistono già al momento dell'anello nome e forma. Ok? Quindi questi vengono formati attraverso uno sviluppo successivo, okay? Dell'ovulo fertilizzato, okay? Nel quale la coscienza è entrata inizialmente. Quindi le sfere, cioè la sfera fisica e la sfera mentale, che sono quindi il potere sensoriale fisico e il potere sensoriale mentale, queste esistono già dal momento dell'ovulo fertilizzato. Okay? Quindi di solito viene detto che quando il nome e la forma, l'anello del nome e la forma viene stabilito. Abbiamo un corpo, c'è un corpo. C'è un corpo. Quindi quando successivamente le sei sfere sensoriali vengono stabilite, abbiamo un corpo e abbiamo anche a quel momento l'esperimentatore che viene creato. Perché? Perché le particolarità del corpo vengono formate, si formano a quel momento, durante questa fase. Quindi ve la rifaccio in un modo più semplice. Dallo sviluppo successivo dell'aggregato della forma, okay, che è l'ovulo fertilizzato, gli altri quattro poteri sensoriali dei sei sorgono. Ok? La sequenza va bene? Avete delle cose da chiarire? È tecnico questa fase. E dopo abbiamo il contatto, il sesto anello è il contatto. E il contatto quindi è un fattore mentale, ok? E il contatto accade quando la facoltà sensoriale, l'oggetto sensoriale e la coscienza si vengono insieme, okay? Si mettono insieme. Quindi quando vengono insieme c'è una capacità di distinguere tra tre tipi di oggetti: piacevole, spiacevole e neutro. Quindi la funzione del contatto è il distinguere questi tre oggetti: piacevole, spiacevole e neutro. E questo quindi, quest'anello può solo sorgere dopo la formazione dei poteri sensoriali. Quindi, quando si andiamo a leggere, la definizione, dice che è un fattore mentale che è la base comune tra il risultato proiettato di un'azione, proiettanto, incluso bla bla bla, due, che dimora in una classe di aggregati di maturazione che ha come confine l'intervallo di tempo tra uno, l'occasione temporale in cui hanno i poteri di contattare i loro oggetti sulla base dell'aggregazione dei tre, l'oggetto, potere sensoriale, la coscienza, ma b, essere incapaci di distinguere le cause delle tre sensazioni, piacere, dolore, neutro, come il cibo e così via, ok? Quindi c'è la parola aggregazione che trovate qui, no? Aggregazione è il sorgere insieme, cioè il venire insieme simultaneo per la produzione della coscienza. C'è cioè il sorgere simultaneo delle cause per la produzione della coscienza, in dipendenza di che cosa? Del potere sensoriale dell'oggetto. Okay. Poi, in dipendenza del contatto, sorge la sensazione. Okay. La sensazione corrisponde alla discriminazione del contatto. La discriminazione del contatto dei tre tipi di oggetti, ok? Quindi sì, la discriminazione del contatto è piacevole, allora la sensazione è piacevole. Sì, la discriminazione del contatto è spiacevole, allora la sensazione è di sofferenza. Sì, la discriminazione del contatto è neutro, la sensazione è neutra. Ok? Ma questa sensazione è quella dei cinque aggregati di prima. Esatto. Esatto. È un fattore onnipresente, un fattore mentale onnipresente. Allora, è chiaro che la sensazione esiste anche al momento del nome e della forma, perché la sensazione è un fattore mentale onnipresente. Se c'è una coscienza, c'è anche la sensazione, ok? E c'è anche il contatto, perché anche il contatto è un fattore mentale onnipresente. Però qui ci riferiamo agli oggetti dei sensi, ok? Quindi il contatto con gli oggetti dei sensi può accadere solo sosseguente alla formazione dei poteri sensoriali, quindi delle sfere. E questa è la sensazione, quindi può solo accadere anche dopo il contatto e dopo la formazione dei poteri sensoriali, perché questa sensazione è quello che sorge in dipendenza dagli oggetti sensoriali. Quindi abbiamo tre tipi di sensazione in accordo alla discriminazione dovuto al contatto. Ok? Quindi in generale distinguiamo tre tipi di sensazione, però ne possiamo distinguere molto di più perché abbiamo sei coscienze. Quindi abbiamo sei sensazioni piacevole, sei sensazioni spiacevole, sei sensazioni neutre, perché abbiamo la sensazione spiacevole nel seguito della coscienza visiva, la sensazione piacevole nel seguito della coscienza uditiva, la sensazione piacevole nel seguito della coscienza olfattiva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo sei tipi di coscienze, tre tipi di sensazione, quindi questo significa che possiamo sperimentare 18 tipi di sensazione. Se vogliamo farla estesa. La sensazione, finché c'è l'ignoranza, è un problema, perché in dipendenza della sensazione sorge la sete, come viene tradotto qui? La brama. La brama. Allora, sì, la brama. Il giorno, cioè quando non avremo più ignoranza, anche le sensazioni sono estatiche, non c'è brama, non c'è possibilità di far sorgere la brama. La brama sorge dovuto all'ignoranza, che è questa reificazione dell'esistenza. Infatti, vi ricordate perché generiamo attaccamento o avversione? Perché? Abbiamo delle qualità a un oggetto superiore a quello che è in realtà. Questo sì, ma perché l'attaccamento e l'avversione sono delle risposte logiche al nostro modo di concepire le cose o di vedere le cose? Ha una sensazione positiva o negativa? Ha una sensazione positiva o negativa? Certo, però sappiamo la realtà come duale. Va bene, siete girando intorno. Perché vogliamo sempre essere felici, vogliamo sempre. Ok, ma la mia domanda è: abbiamo detto, no? Il giorno nel quale non abbiamo più l'ignoranza, anche se c'è una sensazione estremamente piacevole, non generiamo dell'attaccamento. Perché non c'è un'affezione mentale, non abbiamo più l'affezione. Ok, e adesso vi chiedo perché quindi adesso. Quando ogni volta che c'è una sensazione piacevole generiamo attaccamento, ogni volta che c'è una sensazione spiacevole generiamo dell'avversione. Perché? Perché c'è il sé, c'è il sé, ok, qui ancora lì siamo intorno, però ci ravviciniamo. Perché seguiamo esattamente i anelli che abbiamo appena visto, cioè generiamo, facciamo l'azione. L'attaccamento e l'avversione, come agisce l'ignoranza? Consideriamo che le cose stiano io dalla loro parte, quindi le caratteristiche le caratteristiche piacevole o le caratteristiche spiacevole esistono dal lato dell'oggetto. Finché crediamo che i fenomeni sono stabiliti dal potere del proprio carattere o del proprio caratteristiche, che c'è un'esistenza oggettiva del lato dell'oggetto, con delle caratteristiche che esistono dal lato dell'oggetto, automaticamente c'è l'avversione e l'attaccamento, visto che la nostra mente sembra che l'oggetto è intrinsecamente attraente o intrinsecamente sgradevole. Okay? Quindi si eliminiamo questa concezione, no? Che i fenomeni sono stabiliti del loro proprio carattere, allora possiamo semplicemente godere delle cose senza generare afflizione mentale come l'attaccamento, eccetera. Quindi la brama, dovuta alla sensazione, sorge la brama, ok? E quindi abbiamo semplicemente, in breve, possiamo vedere due o tre tipi di brama. Mettiamone tre, dai. Abbiamo una brama che è un desiderio di non essere separato della sensazione piacevole. Il fatto che voler che questa dura, no? E non, che ricercare il contatto è la durata. Questo è un primo. Il secondo tipo di Brahma è un desiderio di essere separato dalle sensazioni spiacevoli, ok? E ne abbiamo un terzo, ok? Che è il desiderio della non diminuzione della sensazione neutro. Anche la sensazione neutro, possiamo vedere che non vogliamo la sua diminuzione. Perché se entriamo nella diminuzione del neutro, entriamo dove? Nel dolore. Quindi quando per esempio adesso no, non siamo particolarmente in stati di sofferenza, almeno spero per voi, okay, almeno a livello manifesto, non siamo particolarmente felici, abbiamo la sensazione neutro, e c'è a un certo livello questo desiderio di mantenere questa sensazione, che questa sensazione non diminuisce. Quindi possiamo distinguire tre tipi di Brahma. Quindi, sì, quando la sensazione è accompagnata dall'ignoranza, c'è automaticamente la Brahma, automaticamente. Quando non c'è più ignoranza, la Brahma non può sorgere, anche se la sensazione è estremamente piacevole. Quindi, il contatto è l'esperienza dell'oggetto. Il contatto è l'esperienza dell'oggetto, la sensazione è l'esperienza della nascita o l'esperienza della maturazione del karma. Infatti, in che modo sperimentiamo il karma? Tramite la sensazione. Sensazione piacevole è la maturazione di un karma virtuoso, la sensazione spiacevole è la maturazione di un karma non virtuoso. Ma senza ignoranza c'è ancora la sensazione. Come? Senza ignoranza. Certo che c'è la sensazione. La sensazione è un fattore mentale onnipresente. Quindi non può esistere uno stato dove c'è la mente e non c'è la sensazione. Perché senza la sensazione non può avere l'esperienza completa dell'oggetto. È impossibile. Se non hai la sensazione significa che non hai neanche il contatto con l'oggetto. Se non hai il contatto, Se vuol non dire hai. che non hai. Non sei base sensibile, Non siamo ancora a questo, ok? Questo è nel contesto del processo di rinascita, è così, però nel processo della percezione, se non hai il contatto significa che non percepisci l'oggetto. appena uno rimuove l'ignoranza, i 12 rami I quante. 12 rami sono finiti. Sì, E quindi non c'è neanche la sensazione. ma questa sensazione è una sensazione che motiva la Brahma, è la sensazione in un contesto particolare, è la sensazione che attiva la Brahma. Non è la sensazione che è un fattore mentale, che è preso in generale come fattore mentale onnipresente. Certo che anche questo è il fattore mentale onnipresente, ma messo in situazione particolare dove è la causa della Brahma. Ma tutte le tue sensazioni non sono la causa della Brahma, almeno spero per te. Certo, Ma sì. non è così. Per esempio, in uno schiocco di dita hai 65 istanti di coscienza, quindi hai 60, 65 istanti di sensazione, di contatto, di fattore di composizione, eccetera. Hai quindi, schiocco di dita, 65 sensazioni diverse per ogni istante. Ma tutte queste sensazioni non fanno sorgere la Brahma, altrimenti c'è poca speranza per te, se è così, no? Abbiamo non sempre nella nostra mente c'è l'attaccamento, non sempre c'è l'avversione, non sempre c'è l'orgoglio o l'avarizia, eccetera, eccetera. In certe situazioni sorge. Quando la Brahma sorge dovuta a una sensazione, allora è la sensazione di questo contesto, capito? Ma semplicemente, per esempio, bevi un bicchiere d'acqua, c'è la sensazione, ok? Perché entri in contatto con l'oggetto e il modo tramite il quale tu esperimenti l'oggetto è attraverso la sensazione, ok? Ma tutte queste Quindi dal sensazioni. contatto necessariamente c'è la sensazione, Esatto. però dalla sensazione non necessariamente c'è la Brahma. Esatto. In questo contesto, invece, è una sensazione che fa sorgere la Brahma. È una E quindi sensazione. allora si può dire che non appena uno estirpa l'ignoranza, c'è comunque contatto e c'è comunque Certo, sensazione. certo, certo, certo. Però Qui, come ragazzi, qui stiamo parlando della sensazione, del contatto, dei poteri sensoriali, della coscienza, ok? In un quadro molto particolare, che è quello del processo di perpetuare, nel processo nel quale si perpetua l'esistenza ciclica. Non è il funzionamento della percezione in generale, okay? Perché quando c'è un istante di coscienza, okay? Abbiamo cinque fattori mentali onnipresenti, cinque fattori mentali determinanti, poi abbiamo i fattori mentali virtuosi, poi abbiamo dei fattori mentali non virtuosi. Comunque il contatto, la sensazione, l'intenzione, l'impegno mentale e la discriminazione sono sempre presenti, ma non sempre sono quelli che partecipano alla produzione dell'esistenza ciclica. Per esempio, adesso ho la penna in mano, quindi c'è il contatto, c'è la sensazione, c'è la discriminazione, ok? Ma questo per adesso non funge da causa all'esistenza ciclica. Sì, ok. Qui questi 12 anelli dipendono, hanno a che fare solo con l'esistenza ciclica. Esatto, sono il processo di produzione ciclica dell'esistenza. Ci siamo? Volevi Sì, riguardo alla disciplina o all'etica, che di solito posta come base, no? Per riuscire a maturare un sentimento di immersione del samsara, eccetera. Per È la base in particolare per la concentrazione. la Viene concentrazione. l'estramento superiore in etica al di là dell'abbandono delle accezioni non virtuose, che in quel modo uno smette di produrre le cose della sofferenza futura. Quando si parla di addestramento superiore, allora si parla della base per produrre addestramento superiore in concentrazione, che ti permette di sovraimporre addestramento superiore in saggezza. Ok, ci sono dei casi in cui inevitabilmente attraverso l'etica ci in qualche modo giudichiamo e quindi generiamo sensazioni riguardo a quello che dovrebbe essere un comportamento corretto o non Sì, corretto, quindi questo rischiamo anche è. Ah, bisogna attraverso. essere molto attenti. E la concettualizzazione, la mente non controllata, questa sì, ah. Non soltanto giudicare, ma anche guardare. Sì, bisogna stare attenti, certo. Quindi non basta semplicemente l'etica, Ah no, cioè no. l'etica l'abbiamo visto, no? Che cos'è veramente l'etica? L'etica è una Sì. mente priva di afflizione. Questa è veramente l'etica, non è semplicemente un trattenere le azioni fisiche e verbali, perché trattenersi di danneggiare gli altri, perché questo è lo scopo dell'etica, trattenersi di danneggiare gli altri tramite l'azione di corpo e parole, ok? Ma questo ha come scopo di farti prendere il controllo della mente. Perché tramite il trattenersi dell'azione del corpo e della parola smetti la tensione mentale inappropriata. Quindi lo scopo è sempre indirizzato a prendere il controllo della mente e a tenere una mente libera di afflizione. Questo è lo scopo, questo è il Dharma. La mente libera di afflizione, questo è lo scopo del Dharma. Quindi perché è difficile prendere il controllo della mente, è una cosa estremamente difficile. Quindi vai piano piano, prima prendi il controllo del corpo perché è grossolano, dopo il controllo della parola e questo ti aiuta a prendere il controllo della mente. Però l'etica mira a una mente priva di afflizione. Chi tollera le afflizioni nella sua mente non ha etica. Possiamo metterla così. Ok? Sì. Sì, una domanda. Per quanto riguarda le latenze che avevamo detto, no? Nel secondo anello, No, il secondo anello non sono le no, latenze, il secondo anello è è l'azione. l'azione. No, io dico quando viene depositata sulla coscienza la latenza, sulla coscienza Ok, la causa coscienza viene causale. depositata la latenza. Quella latenza lì, per capire meglio, perché faccio un po', in Cittamatra, no? La latenza, è quella la latenza di Cittamatra, quando dicono che l'azione e viene a formarsi dalla maturazione della latenza. Esatto. da una, dalle potenzialità, le potenzialità karmiche sorge una coscienza e l'oggetto, e questa latenza, sì, che vengono depositati sulla mente base di tutto. Quindi stasera c'è un po' di interattività, mi piace questa cosa. Di solito faccio il monologo. Ok, bene, andiamo avanti. Allora, dopo abbiamo la Brahma. La Brahma abbiamo visto che abbiamo tre tipi di Brahma. Dopo della Brahma abbiamo, come tradotto? L'afferrarsi. L'afferrarsi è un'intensificazione della Brahma. È un'intensificazione, quindi l'afferrarsi è prodotta dalla Brahma. È una forma, è un incremento del numero 8. Il numero 9 è un incremento del numero 9. Del numero 8, scusate. E anche questo l'abbiamo di quattro tipi. Abbiamo quattro tipi di afferrarsi. Ok? L'afferrarsi in questo contesto viene considerato come un desiderio e un attaccamento verso quattro tipi di oggetto. Che possono essere, per esempio, cioè l'afferrarsi a ciò che desideriamo in termini di oggetto dei sensi, in termini di visione, in termini di considerare un'etica erronea, e anche rispetto alla visione del transitorio, c'è un afferrarsi rispetto alla visione che c'è un sé, può essere anche quindi un attaccamento, un afferrarsi a delle visioni, sì, l'abbiamo vista, a delle visioni, a un modo di etica, a un modo di etico di condotto, o a delle asserzioni rispetto al sé. Comunque è un'intensificazione del numero 8, è prodotto dall'8. E dopo abbiamo esistenza. Allora, esistenza è il caso di dare il nome del risultato alla causa. Si dà il nome del risultato alla causa, quindi il risultato è l'esistenza, ma questo non è l'esistenza, questa è la causa dell'esistenza. Quindi che cos'è questo 10 anello esistenza? È semplicemente quando la potenzialità deposata dal numero 2 nel numero 3, al momento del numero 3, questo, quindi la potenzialità stabilita dalle formazioni karmiche, viene nutrita e diventa potenzializzata per sviluppare un'altra vita. Un'altra vita. È l'attivazione. È come quando abbiamo una pistola, no? Si carica. Quindi è pronta a sparare. Quindi le maturazioni che sono state depositate nella coscienza, no? Sulla coscienza. Pensate in una giornata quante ne depositiamo, quindi quante ne abbiamo depositate in vite passate e che non hanno ancora, che non sono ancora maturate. Quindi questo è molto rilevante al momento della morte, no? Perché al momento della morte abbiamo la Brahma va a intensificarsi e l'afferrarsi, e l'afferrarsi, va a attivare una potenzialità karmica. Quando questa potenzialità karmica particolare è pronta per produrre il suo risultato, che è una prossima rinascita, si chiama esistenza. Quindi potenzialità karmica, il potenziale si chiama esistenza potenziale o potenziale esistenza. Quindi nel passato, con le attività di composizione, no? Le azioni di composizione, abbiamo, come si dice, infuso sulla coscienza con delle predisposizioni latente. Quando questa una potenzialità, una predisposizione latente viene, in particolare viene nutrita, la Brahma e dall'afferrarsi, allora questa potenzialità diventa, sì, o questa, queste impronte è potenzializzata, potenzializzata per produrre un'esistenza successiva. Quindi il momento della morte è molto, molto importante, perché è lì che andiamo a pescare. Quindi esistenza è proprio il caso di dare il nome del risultato alla causa. Quindi questo anello dell'esistenza occorre al momento appena prima la nuova esistenza. Il momento appena prima. Ok? E dopo abbiamo la nascita. Ok? Quindi la nascita qui, se guardiamo la definizione dal punto di vista svatantrica, dice che è una classe completamente afflitta di origine indipendente che dimora in un tipo di aggregati di maturazione. Ok? Quindi lì cioè, presenta i cinque aggregati di maturazione, quindi i cinque aggregati che hanno come momento iniziale l'occasione temporale in cui avviene la connessione con l'esistenza nascita, ok? Quindi in breve è semplicemente la coscienza che entra inizialmente nei nuovi uno dei quattro tipi di rinascite, mettiamola così. La coscienza che entra inizialmente in uno dei quattro tipi di nascita. Quindi appena dopo il trasmigrarsi, il trasmigrare verso una nuova vita, appena dopo. Dalla seconda vita in poi. Come? Dalla seconda vita in poi. Cioè, nel senso, questa ci riapportiamo un'altra volta all'altro anello. Non ho capito. Cioè, praticamente questa lì è un'altra volta l'esistenza. Esatto. Allora vi sei proiettato. Questo è il futuro. Questo è il futuro. Adesso vediamo la sequenza a livello del tempo. Vediamo quali sono gli anelli del passato, del presente e del futuro. Dopo di questo, dovuto al fatto che ci sia la nascita, c'è la morte, c'è l'invecchiamento e la morte. Okay? Allora vengono presentate invecchiamento e morte perché certe volte si muore subito dopo la nascita, non c'è il passaggio dell'invecchiamento. Invecchiamento si riferisce al processo di cambiamento che inizia con il secondo momento, dal secondo momento in poi della nuova vita. Questo è invecchiamento. Okay? Non è solo quello che possiamo pensare noi come invecchiamento, ma il secondo momento in poi di concezione. Cioè, i fenomeni sono impermanenti, sono sempre in uno stato di mutamento continuo, quindi il secondo momento in poi è già invecchiamento. Quindi da quando siamo nati incominciamo a invecchiare. Ok? Quindi invecchiamento e morte si riferiscono anche a tutte le sofferenze che abbiamo visto al momento delle contemplazioni, delle sofferenze di vita ciclica, le sofferenze del vincchiamento, della morte, le sofferenze di incontrare ciò che è spiacevole, eccetera, eccetera. Tutto questo accade intorno a questo. Qui ho notato qualcosa? Ok. Quindi guardiamo un po' di nuovo queste cose. Allora, vediamo che l'ignoranza, il fattore di composizione e la coscienza causale, alla coscienza dell'aumento della causa, si chiamano cause proiettante. Questi primi tre vengono chiamate cause proiettante, perché questi, e con questi si iniziano un processo un processo, un ciclo di 12 con queste tre. Okay? Quindi queste tre proiettano, cosa proiettano? Proiettano a 4,5, proiettano 4,5 anelli, proiettano il nome e la forma, okay? Le sei sfere, il contatto, la sensazione, più la coscienza al momento dell'effetto. Quindi abbiamo 3 anelli che proiettano 4,5 anelli. Okay? Questi 4,5 anelli sono l'effetto proiettato. L'effetto proiettato da che cosa? Dalle cause proiettante. Okay? E poi abbiamo, la brama, l'afferrarsi e l'esistenza, che seguono in un certo modo l'1, 2, 3, lo vedremo dopo. Vengono chiamate cause attualizzante, perché che cosa attualizzano? Attualizzano la nascita, l'invecchiamento e la morte. Quindi in termini di sequenza, okay, per farla semplice, oggi la facciamo semplice, settimana prossima guardate tutte queste cose e entriamo nelle complicazioni. Okay? Abbiamo per esempio le prime, no? L'ignoranza, fattore di composizione, e la coscienza causale, per ciò che ci riguarda noi, sono nel passato, sono le cause che hanno proiettato questo corpo, okay? Il nome e la forma, quindi la coscienza effetti, il nome e la forma, le sei sfere, il contatto e la sensazione, che sono nel presente. Quindi abbiamo i primi tre del passato hanno proiettato queste 4,5 del presente. Okay? Alla fine di questa vita, quindi nella vita presente, avremo la brama, l'afferrarsi e l'esistenza che proietteranno la nascita, l'invecchiamento e la morte. E queste ultime due sono effetti futuri, quindi ancora non esistono. Ci siamo? Non ci siamo qui. Ok? Avete delle domande? Devo rispiegare a certe cose? Perché l'esistenza di venire è questo, praticamente il nostro presente. Attento, se tu mi dici l'esistenza è la causa attualizzante, sì. Non c'è ancora. Non è l'effetto attualizzante che non c'è ancora. Ma neanche la causa attualizzante. La causa attualizzante non c'è. No, ancora non c'è. La prossima esistenza, però più tardi in questa vita, l'esistenza esiste quando tu, al momento della morte, vai a potenzializzare un karma particolare. Ok? Allora c'è l'esistenza, che è seguito dall'afferrarsi, preceduto dalla brama, che è preceduto dall'afferrarsi, che è preceduto dalla brama. Quindi questi tre ancora non sono ancora successi. Sono successi rispetto a questa vita, okay? Ma non sono ancora successi in questa vita. Però io sono il risultato di questo. Ok. In questa vita questi 3 anelli non sono ancora successi, perché servono per attivare il karma della vita futura. Quindi sono accaduti nella vita passata, al momento della morte nella vita passata. Esistenza, quindi c'è stato l'anello dell'esistenza dove il karma è stato potenzializzato. E questo karma ha prodotto la nascita, cioè la coscienza effetto con gli altri 4 anelli. Ok? Quindi abbiamo delle cause proiettante, che sono ignoranza, fattore di composizione e coscienza. Questa proiettano, l'abbiamo visto, quattro fattori e mezzi, che sono la coscienza effetto, il nome, la forma, le sei sfere, il contatto e le sensazioni. Si chiamano effetto proiettato. Poi abbiamo tre cause attualizzante, che sono la brama, la ferassi, l'esistenza, e abbiamo due effetti attualizzati, che sono la nascita e la morte, l'invecchiamento. Allora, qual è lo scopo perché sembrano che siano due serie, due gruppi di causa-effetto, Sembra che ci siano due gruppi di causa-effetto, ma non è così. È semplicemente per farci vedere quali sono le cause della vera sofferenza. Quindi la vera sofferenza, la verità della sofferenza ha due cause, due tipi di cause. Uno sono l'ignoranza, i fattori di composizione, e la coscienza al momento della causa, e le altre sono la brama, l'afferrarsi e l'esistenza. Quindi la verità della sofferenza sorge da questi due gruppi di cause. C'è da riflettere su e c'è da tirare delle conclusioni. E questa è la pedagogia dietro, Hai detto che questi 12 giorni hanno a che fare con l'esistenza. questi? Questi 12 giorni hanno a che fare col ciclo della nascita. Esatto. Infatti, E ti si possono applicare anche in maniera magari parziale alla percezione che abbiamo in nessun modo. Cioè solo ed esclusivamente per il ciclo di rinascita. Sono altre scuole, questo lo puoi solo collegare alle azioni. Qui si parla di azioni, ok? Quindi ci sono altre scuole che spiegano che i 12 anelli esistono al momento di ogni azione, ok? Quali sono? Sono una delle, o sono il sottantrica o una suddivisione dei Vaibhashika, che spiegano che ogni volta che fai un'azione ci sono i 12 anelli. Però questa non è la presentazione che riteniamo nel Madhyamika. Perché infatti mi sembrava di aver letto tanti sutra dove parlano dei 12 anelli ma riferiti a come uno esperisce la realtà. No. Cioè, hanno a che fare con le azioni. Come esperienzi la realtà è chiaro perché è direttamente collegato visto che c'è il primo anello ignoranza. Quindi il primo anello ignoranza è come esperienzi la realtà, cioè l'esperienza in un modo distorto. Questa è la tua esperienza della realtà distorta, o l'esperienza distorta della realtà è il primo anello, quindi ha a che fare con la percezione, però. E spiega come, dovuto a questa oscurazione rispetto all'ignoranza, tu vai a produrre delle azioni che avranno come risultato l'esistenza condizionata. Si chiama esistenza condizionata dall'ignoranza. Ecco perché. Però secondo la scuola madhyamaka non ha a che fare con le Sì, ha a che fare con l'azione, perché azioni è il secondo anello. Sì, però dicevi ci sono le altre scuole che lo riportano i 12 anelli nelle azioni Anche, lo come. spiego anche come esistente, come presente In ogni azione in che. ogni azione. Il Madhyamika non lo ritiene come pertinente e come non essendo la visione finale del Buddha quando ha presentato i 12 anelli. Quindi la bramosia che provo nel vedere un oggetto, non so, deve diventare mio, quella lì, e poi magari la stessa bramosia che mi spinge ad appropriarmi nell'oggetto. Ah, ti dico, le possiamo trovare in un'azione le possiamo trovare questi 12 e possiamo reinterpretare il significato di nascita, il significato di invecchiamento e morte e il significato per per vederle in ogni istante, no? Però l'intenzione finale del Buddha era questa che vi ho presentato. È questa sulla quale i resistori solitari meditano per ottenere la liberazione. Quindi questo è è l'approccio dell'intenzione finale. Non vedo qual è il tuo problema. Perché, ti ripeto, avevo letto in un po' di sutra questi 12 anelli per spiegare... Sì, sì, allora, leggere i sutra è molto buono, continua, però è estremamente difficile, ok, di cogliere il significato dei sutra. Di cogliere così direttamente il significato del sutra quando non hai studiato l'interpretativo, il definitivo, questi trattati della Mazzon Kapa, che è l'essenza dell'eloquenza, dove lui spiega in accordo alle varie scuole cosa è interpretativo e cosa è definitivo, su che cosa bisogna basarsi per decidere che qualcosa è interpretativo o definitivo, molto difficile. Quindi, arrivi a concepire, per esempio, che c'è tre veicoli finali, che c'è il nirvana senza residui, dove è il suicidio cosmico, che i 12 anelli esistono in ogni azione, eccetera. Questo è dovuto a non cogliere il significato definitivo. Però, quindi non sono neanche utili come... No, mezzi. Non ho detto questo. No, per capire. Sono non finale. No. Cioè, che non è finale, vuol dire... Che non è finale. Che non è l'intenzione, cioè, allora, c'è né tutto ciò che il Buddha insegna, c'è un proposito, ok? C'è una base di intenzione, c'è un proposito e c'è un danno al prenderlo letteralmente quando è interpretativo. Quindi certe cose, è una storia complicata, bisogna studiare. Complicato. Quindi qui i 12 anelli, come vengono presentati per te, quello che ti serve a te per ottenere la liberazione è questo. Cioè, se un Hinayana sviluppa una visione Hinayana, va bene. Se uno che è sul sentiero del Bodhisattva sviluppa una visione Hinayana... No, ma cioè, ragazzi, anche nell'Hinayana le guardano così i 12 anelli. Però ci sono altri modi di vederli. Ci sono altri modi di vederli. Perché sembrava più la possibilità di vederlo con più facilità. Nel quotidiano. Cioè, come il lavoro, come il tipo di pratica. Ma questo è il quotidiano, te lo dico così. Questo ogni giorno ne fai 500 dei cicli di questo. Sì, ma magari non è così facile vederlo. Anche perché ci sono degli anelli che non vedrai. Cioè che no. Devi incominciare. Dopo il modo di riflettere su queste cose. Qual è la funzione di questo? La funzione di questo è di far sorgere quella mente di emersione definita. Cioè il desiderio di uscire dall'essenza ciclica. Ok? Quindi, studiando questo e meditando, e non vi presento stasera adesso il modo di meditare perché è un po' lungo. Cioè, non è che è un po' lungo, però ci sono altre cose da vedere prima. E ci sono quattro modi di meditare, no? È di capire come si entra, come uno entra o come uno perpetua l'esistenza ciclica, quindi la sofferenza, e come si esce. Come si attualizza il completamente puro, okay? Come si entra nel completamente puro, o come si abbandona il completamente afflitto. Questi sono i quattro modi di riflettere. Quindi, se vuoi incominciare a riflettere stasera, tu ti devi dire, ok, perché c'è questo, deve essere anche, le contemplazioni di questo sono anche nutrite delle contemplazioni dell'essere di motivazione intermedio. Ma mi sa che non ci sono qui. Le contemplazioni dell'essere di motivazione intermedio, quindi devi avere in mente bene cosa sono le afflizioni, quali sono i svantaggi delle afflizioni, perché ci hai meditato, qual è la sofferenza causata delle afflizioni. Devi avere anche in mente ben chiaro le varie sofferenze dell'esistenza ciclica, quindi, perché finché uno non ha realizzato il suo stato di sofferenza non ha il desiderio di uscire, Non c'è il desiderio di uscire, quindi non c'è il desiderio di meditare su questa cosa, non si vede neanche, cioè, il beneficio di farlo. Perché le sofferenze di vita ciclica sono qui, in invecchiamento e morte. Quindi uno dice: perché c'è invecchiamento e morte? Perché c'è invecchiamento e morte? Perché c'è la nascita? Perché c'è la nascita? Perché c'è l'esistenza? Perché c'è l'esistenza? Perché c'è l'afferrarsi. Perché c'è l'afferrarsi? Perché c'è la brama. Perché c'è la brama? Perché c'è la sensazione. Perché c'è la sensazione? Perché c'è il contatto. Perché c'è il contatto? Perché ci sono le sei sfere. Perché c'è le sei sfere? Perché c'è il nome e la forma. Perché c'è il nome e la forma? Perché c'è la coscienza. Perché c'è la coscienza? Perché ci sono le azioni. Perché ci sono le azioni? Perché c'è l'ignoranza. Quindi, in quel modo tu, cioè, quando penetri la cosa, realizzi che la sofferenza è creata direttamente tutto ciò che sperimenti in questa vita, tutte le tue insoddisfazioni, tutte le nostre insoddisfazioni, le nostre condizioni miserevole e precarie sono dovute all'ignoranza. Questo ti fa capire questa cosa e ti fa capire, è come cessare, se l'ignoranza cessa, cessano i fattori di composizione, se i fattori di composizione cessano, la coscienza cessa. Se la coscienza cessa, il nome e la forma cessa. Se il nome e la forma cessa, le sei sfere cessano. Se le sei sfere cessano, il contatto cessa. Se il contatto cessa, non c'è più la sensazione. Se non c'è più la sensazione, non c'è più la brama. Se non c'è più la brama, non c'è più l'afferrarsi. Se non c'è più l'afferrarsi, non c'è più l'esistenza. Se non c'è più l'esistenza, non c'è più la nascita. Se non c'è più la nascita, non c'è l'invecchiamento e la morte. E questa è la liberazione. Questo è il modo in quale rifletti il contaminato dal punto di vista del produrlo o del cessarlo. Puoi fare la stessa cosa con il completamente puro, però lo faremo un'altra volta. Quindi questo è il modo sul quale il modo devi riflettere in questo modo, con i 12 anelli. Questo, cioè quello che vi è elencato, è il modo di riflettere sui 12 anelli. Però quando tu sei lì invecchiamente morte, devi avere anche il desiderio che questo cessa. Devi anche quando tu pensi al dodicesimo anello, invecchiamente morte, questo devi portare alla tua mente tutte le contemplazioni che hai fatto sulle 8 sofferenze di esistenza ciclica, le 6 sofferenze di esistenza ciclica, i 3 tipi di sofferenza di esistenza ciclica, la sofferenza delle afflizioni, tutte queste cose, perché altrimenti, se uno pensa che, ok, qui ce la possiamo cavare più o meno, facciamo un po' così, l'esistenza ciclica è qualcosa che possiamo, cioè questa vita è qualcosa di, non è così terribile, se la possiamo cavare basta avere il lavoro giusto, il posto giusto, o il compagno o la compagna giusta, allora non c'è neanche il primo scopo in quel tipo di Olivier, pensiero. quindi sono metodi diversi, cioè le varie scuole raffinano. Non intellettualizzare tutte queste cose con le altre scuole, eccetera. Questo è il modo, questo è l'amrim. Se tu vuoi, cioè il l'amrim è fatto per far maturare la tua mente. Questo è il modo di riflettere e c'è un grande beneficio a farlo. Non cercare le altre scuole come fanno, bla bla bla bla. Prima si cerca di capire bene il nostro sistema. Prima si fa così. Si capisce bene il nostro sistema e una volta che hai capito bene il nostro sistema e che hai capito bene il beneficio, che hai l'esperienza della meditazione, nel senso che hai trovato lo scopo della meditazione, che sei riuscito a far sorgere l'oggetto sul quale devi meditare, allora per completare la tua comprensione puoi andare a guardare le altre scuole, però non adesso. Perché altrimenti il mio maestro diceva che questo è il metodo migliore per sviluppare un loose wisdom, una saggezza che non tiene in piede. Non tiene in piede. Prima devi capire bene il tuo sistema, no? Il sistema diamica. E dopo, poi, no? Piano piano, completare la tua comprensione, vedere, nelle altre scuole fanno così, perché? E guardi e vedi che c'è anche un beneficio a farlo, a presentare le cose così. Poi Poi un'altra scuola lo fa anche così, un'altra scuola lo fa anche così. Però dall'inizio incominciare così, alla fine, stringi, stringi, non c'è comprensione. Non generi la comprensione di nessun sistema. Perché tutte queste cose non sono semplicemente fatte per, come si dice, occuparsi intellettualmente. Assolutamente no. Non è fatto per occuparsi intellettualmente. Questo è fatto per ottenere la liberazione. Quindi sono stati presentati dal Buddha per ottenere la liberazione, no? E se uno si applica a quel metodo, ottieni senza dubbio il risultato. Ok, io direi che per stasera sì, ci sono un paio di domande ancora, sì. Sì, ma no, volevo dire, quando dicevi all'ultimo vecchiaia e morte, no? Cioè noi dobbiamo a un certo punto renderci conto perché non voglio morire, no? Se non voglio morire, mi devo nascere. E comincia a fare tutto il percorso. A me qui mi viene da generare quello che te prima hai detto, rinuncia. Cioè nel senso, a questo livello qui c'è rinuncia. Sì. Alla fine, cioè, se una si rende conto di tutto questo, no? Ritorna tutto indietro, alla fine, cioè, rinuncia all'esistenza ciclica. Sì, ma questo è lo scopo, di far sorgere questa mente che dice basta. Perché Basta, cioè io. invecchiamento è morte, che non è solo la morte in sé, cioè, non è così terribile, è tutto che c'è tra la morte e la nascita. Cioè, Ricominciare. tutto questo casino. Cioè, riprendete un po' da quando siete nati fino adesso, cioè, le problematiche senza fine, le difficoltà, le sofferenze, le insoddisfazioni, le frustrazioni che sorgono uno dopo l'altro, senza fine. Cioè, i problemi, di comportamenti. Ricordatevi quando eravate a scuola, è questo che significa è questo che implica invecchiamento e morte. Quindi Shakyamuni dice tutto questo, tutto questo significa, è contenuto in invecchiamento e morte, capito? E non è solo la morte e l'invecchiamento, capito? È tutto ciò che c'è, c'è la massa, c'è la montagna di difficoltà che c'è tra una nascita e tra la morte. E ecco, mi sembra pensare che l'immersione definitiva è rinuncia. Non è definitiva, è definita. Definitiva, immersione Definita. definita, l'immersione Definitiva definitiva è. è rinuncia. Sì, è la stessa cosa. Rinuncia è una traduzione volgare. Cioè, letteralmente è immersione definita. Perché prima all'inizio, quando hai iniziato a fare tutto questo incontro, hai detto non parliamo di rinuncia, perché la Sì. rinuncia all'essere a noi, no? Da noi, perché sembra quasi rinunciamo a una cosa quasi piacevole, Sì. no? In realtà rinuncia è bello. È fantastico. È la più grande speranza che c'è, è l'immersione definita, perché abbiamo la possibilità, c'è qualcosa. Prima dobbiamo realizzare dove dobbiamo emergere, dalla sofferenza. Okay? Quindi è molto ottimista la mente di immersione definitiva, definita. Ok? Sì. Prima hai parlato il vento sottile forma. Il vento sottile forma, sì. Puoi dirmi cosa hai detto? Questo è dal punto di vista del tantra, no? Quando guardiamo la mente è associato a un vento sottile, no? È l'aspetto mobile della mente. La mente puramente è un conoscitore e si muove. È il pensiero, Il pensiero è una forma di mente, una mente concettuale, però abbiamo anche i percettori diretti, sensoriali, abbiamo anche dei percettori diretti mentali, e poi c'è la mente concettuale, che sono i pensieri, che è un grosso problema per noi, i pensieri. Quindi la mente, semplicemente qualsiasi tipo di mente, cavalca un vento, no? Cavalca un vento, e questo vento è forma. Allora non è il vento, vento che c'è fuori, è il prana, semplicemente ciò che circola nei canali. Rinpoche parlava di questa cosa questo pomeriggio. La telepatia è qualcosa che fa, che vuol dire? È tutto associato, sia cognizione, e naturalmente c'è anche il vento, però non parliamo di queste insieme del tantra, verranno più avanti. E poi una cosa che passa tra una morte e una rinascita. Come? Il tempo che intercorre tra una morte e una rinascita è uguale per tutti? Non c'è tempo tra una morte e una rinascita, non c'è, è la continuità di istante. C'è un istante di coscienza e questa vita, l'istante di coscienza successivo è un'altra vita. Quindi non c'è un periodo dove non c'è niente e poi l'esistenza sorge di nuovo, no? È come dei domino, no? Che fai cadere. Quindi quando una persona ha dei contatti con dei morti... Come? Quando una persona ha dei contatti con dei morti... Ah, sono... questi morti sono... è un tipo di rinascita. Sono spiriti. È un tipo di rinascita nel buddismo. Bene. Ci vediamo settimana prossima. Continuiamo con i 12 anelli. Si studia, si contempla le cose. Okay, quindi la settimana prossima vedremo la classificazione abbreviata. Andremo in un paio di complicazioni, ci faremo un paio di domande e vedremo come quanti vite al minimo e al massimo questi 12 anelli possono essere attualizzati, e poi vedremo le 4 meditazioni. Quindi la settimana prossima chiudiamo la storia. Quindi dedichiamo le virtù che abbiamo accumulato, le dedichiamo finché molto velocemente possiamo generare la mente di Bodhicitta. Che molto velocemente possiamo anche generare la visione, la percezione diretta del modo di esistere dei fenomeni, eliminare l'ignoranza, che finché molto velocemente possiamo ottenere lo stato di Buddha e essere così di beneficio, può essere in grado di portare gli esseri, le nostre madri del passato, in uno stato al di là della sofferenza. Dedichiamo anche alla lunga vita dei veri maestri che insegnano i veri sentieri verso le vere cessazioni, okay? E dedichiamo finché l'insegnamento del Buddha, in particolare quello di Lamazon Kappa, dimora senza essere corrotto in questa sfera. Rova jigyama loma neye sala goma cho jan cho sam cho rambo je ma ge ba nam ge gyu je nyama nyamba nyamba yo go ne gong du pal wa yo go le ra wa go rwe jing kam ge dam dam de wa ma lu ju we ne jen re zi wa ten zi gya zo yi Shabe jide bandu den gyuj Daso jinye sambe gyawadi Demdam drawa guna gambed Jamba jizu lozan rambayi Tembe nyambo rindu selje Quindi andate a leggere anche il Pabunka sui 12 anelli, vedere un po' come esplica, come spiega le cose. Potete così approfondire, completare. Comunque penso che la sezione è abbastanza breve, se mi ricordo bene. Ok, vi ringrazio.